Ma pure miscela, gufo! Non mi tocci il gufo, ma si fanno, la muoio il porcetto, no, gufo! Non mi tocci, sono le orecchie! Preparando l'aerosol a mia moglie. Ah, ma si sente? C'è la tosse. Anche mamma, grazie, non sta bene. Tosse, tosse, c'ho questa tosse brutta. Però non ne vuole fare l'aerosol. Aspetta che gliela preparo, va. Aspetta. Fai, che altro intanto io mi lavo, a dopo, ciao. Ha detto gufo. Gufo, dove sei? E giù. Ehi, tromme tromme. Ha detto Gio Maria, ma dormitoci. Ehi, oggi sei dormito già. Ma io non c'ero, no, ero in compugno. Davvero? E giù. Ma non sei uscito io. Aspetta, guarda qua, devo preparare l'aerosol a mia moglie, sparito. Com'è? Ho detto gufo, poco fa è entrato, che stava andando a preparare l'aerosol alla moglie. Ah, ed è sparito, no? E lui? Aspetta, già sei giù, sto facendo l'aerosol. È perché tu glielo stai facendo a tua moglie. Ah, e allora spiegati però prima di dire qualcosa, Bello bene, c'è pure Luca, c'è sempre a parlare della moglie. Mio marito, a mezz'ora fa viene la piparena, come l'ha piparato? Chissà cosa fai. Oggi è tutta in maniera di garibocchito, in campagna. Che sai, prima di dire? E allora, e fa la campagna per arrostirlo, per abbrustolirlo bene. L'ha fatto rosso. No, rosso l'ha fatto, a ciaffi l'ha pigliato. E allora, cazzo, l'ha fatto la faccia ruia. Vero, bello bene. Evidentemente è fuggito subito la campagna, sta di palmeva. Sicuramente. Io, signor Mario, ho messo in un gruppo quello scambio, vendo quattro muri, Sardegna, dai. Il baracchino, il mobico, con 400 euro. Ma lì tu che è troppo. Cazzo di no, aggiungo, vendo Mobicom con modifiche, 400 euro, mi hanno detto che è troppo. Allora, conta che da 400 euro, solo tu mi voglio dare 50 euro più di spedizione. Cioè, spedito, compreso di 50 euro. No, si mette un rigaruburu, Lo spedisco io direttamente. Da fuori? E allora? No, ma non lo do, lo stavo prendendo per i fondelli, dai, non mica lo vendo, ma va. Perché ormai quelle lì non c'hanno più valore, capito? Conviene tenersene uno, perché funzionano bene quelle lì. Non so che funziona bene, ma infatti non lo do, ma stavo scherzando. Comunque vale fai 100 euro, dai, 80-100 euro. È un bel apparecchio, è quello. È un bel apparecchietto. Sì. La lasciai così. Che oggi non c'è più commercio, capito? Non c'è più commercio, per cui... si lo deve. Senta, però, glielo dati. No, ma, ripeto, non lo do, stavo scherzando. E già tanti va giù sulla Fayette iPhone, che vale quello, Quello buoni 150 euro se li vale, ma non lo do. Sì, infatti, ma sono andato, tanto pare te ne chiede, per cui... saranno. A vedere, no, vedo niente, nulla. Quando guardo, l'ho visto, e si va fuggito. E buoni pure un lampano, mi dice, però non li do due, ho detto, cazzo. Non me ne chiedono pane, per cui me le tengo finché ci sono io, dopo la aggiustano, o ti sembra? Giovanni, già ho capito, scusa che mi stavo parlando verticale qua. Vabbè, niente, mica, l'ho scritto così, va a fare un buon gusto su quel gruppo lì, su Facebook, 400 euro, quello ma è come ho messo, subito la gente, ma non, ma che modifica? Le modifiche dei VAT e dei canali, e mi ha scritto che non si vale più di quel tanto, 50 euro, 60 euro, boh. Ma se non lo puoi dare non ne mettere nemmeno lui. Ha fatto così per giocare, dai. Capito. E no, se non lo puoi dare non ne mettere nemmeno, Sancio. Se lo vuoi fare tanto per. Però no, non conviene nemmeno a farlo, capito? Vabbè, dai. Volevo un po' di critiche. Scusate, va a comprare a mira, se poi devo comprare la cassata, allora saranno. Questo è la passiri, però non li so. Che me lo quasi fa? Per carità. Oggi non c'è commercio in questa roba, per cui no, te ne pagano, capito? Già l'hai vista, se entri su eBay, cazzo, ve ne so. A buon prezzo, cazzo, proprio a stracciatura, là. Tu hai un apparecchio che a me piace un bel, che è quel Saturneco modificato a colpo, quello è bello. Io ne ho uno modificato, c'è la scheda a colpo. È stato comprato i Galaxy, portato a modificare, hanno messo la scheda, e ce l'ho io qua, ce l'ho io. Un bel di là. Un bel di là, però non li uso, no. Io mi poco fa l'ho acceso, però l'ho acceso solo, non ho usato, capito? Non li uso, perché ne ho due Galaxy, nuovi, però quello modificato è nuovo di zecca, capito? È nuovo. E quello quale, che valore ha quello lì? Io l'ho pagato 450, scherzo. Più la modifica, 300 rotti, fatti un conto, lui. Te l'ha già fatto, vabbè, sei nuovo. Bene, il titolo esce molto bene. Mi piace tutto con la radio, 100 euro! A te, fa 100 euro. Ti do con una canna, dai, non c'è tutto. Io ne offro 200, va. Tanto non pare né di una cinta, non è tratta di nessuno, qua c'è modificato come si vuole, non ne vale più la pena, anzi c'è giorno sono pure grossi, fatti mille non trattare, non per nessuno, un gaffo avessi, un babbo a sale. Fai forza, ti stasera non per nessuno, vai a darti i canali e vi so. Il continente è tutto pieno, cosa mi azzecchendi? Basta sapere i canali dove sono loro, vai e chiacchieri quanto ti pare ti piace. Oi, che morto, la rapigi, che non va più nessuno, con tutti questi congegni che hanno inventato va, e il telefono, e i tacchi, oramai sono passati i tempi di rispetto. Vabbè, tu dico sì, io dico cosa, dico là, e anche ti fai i nomi, poi prima di tutto non li doggo io. Pare non me le chiede, mi piace a ferro, ogni tanto me la sento e me la baido. Oh, non ci parlo, però mi piace a ferro, me lo accendo e me lo guardo, in faccia me la baido. Ma io manco una sente, se la discuto una facile. Ed è arrivato, tanto non si ribaga, non rimane lì, tanto si pratica già se lo infatti, aperta al guassettone. A me non me ne chiedono, padre, non ho bisogno di quei soldi io. Preferisco lasciarli qua, me le guardo. Non me ne chiede pane, così che non li dopo. Ma a Cuba sogno li dopo. E io sì, vado a largare, non li dopo. Anche mancare di praticamente, a cellulare, fanno la bisna, a cellulare, riprendi. Ehi, guarda, ce lo ringraziamo comunque, dai, non è più commercio. Prima sì, anni addietro c'era il commercio, adesso non c'è più niente. Cosa? Non te si va a spendere i soldi, non te ne fai niente, alla fine un baracchino così andava più che bene per parlare qua. Poi, ovvio, se a uno gli piace avere più radio, farsi una stazione, insomma, accende tutto, tutto illuminato, allora va bene. Ma alla fine basta un baracchino e boh, e parli dappertutto. Ma poi non ne vale più la pena di investire soldi su questa cosa. Perché anche se poi magari mi vedi uno che ti piace di più, cosa di più, e ti puoi vendere qualche uno di quelli per recuperare, recuperarti di più. A caso vedi i nostri italiani più. Non per nessuno. Sì, dici, ma io ti avveggia. Davvero, solo che bisogna capire. Certo, durante la settimana, capire, non c'è nessuno, no, perché tutti lavorano. Però su tardi c'è la gente, hai robe 9:30, venne fa i denti, anche in continente. La capigine, la disoccupazione ha inciso anche su questo fattore. Tutti i cittadini di vera li si risolvi, tutti i padroncini di vera li fa viene la radio, non fa più un padroncino. Gli unici furgoni che trovi e che vedi sono delle ditte, padroncini non ce n'è più, baracchini non ne hanno più e se ne l'ha fatto. I cicli da poi modulavano i grugami, li avevano in casa, a base sono disoccupati, non cerca di fare da baracchino, i cicli non cerca di buccarsi il travaglio e ne è passata tutta la battaglia del baracchino e tutti sono così. Dunque, è andato tutto in ora amara. Mia gente, vanno il baracchino sul denile, sai cosa fate? A travagliare non vanno, a travagliare non vanno, sta sempre il baracchino, si decciano i favidenti dal baracchino. E allora, si decciano con i menù che li mangio io in trasmissione, vero Luca? Vero è. No, comunque anni addietro già ce n'era di commercio di queste cose, adesso cosa? Io quanti anni ho? Vabbè, io ho avuto anche il 140, ma alla fine basta un baracchino per farti due chiacchiere qua. A me parlarci fuori poco mi interessa, non faccio manco più di ex, prima l'invasivo, adesso non più, non mi garba più. Ah, graziano, il piaziano. 140, o 440. Si ridai una per quel genere, Graziano, sapenta. E chi vi sapenta, Graziano, vero Graziano? Ma se non mi affetto di marco 11, mi hai fatto un palazzo, a me che da finire. Cos'è? In AM, sempre chi sa cagione, cosa mi affetto? Cosa ti affetta a fare? Non c'è un'anima, facci la canale e ti dici e non ti rispondi nessuno. Non c'è un'anima, non c'è. Oh, e se no con chi si chiama la puntata? Ma non c'è nessuno, cosa da prendere? Ma c'è Pinocchio, voi sa. Se ti ha sentito pure lui, se mi bisogno, di canale, la gente, vè. Se tu giri, beh, e chi sta parecchio tratta lui, non è che lui devi romunire. Solo che a te non ti non puoi avere due apparecchi sopra il tavolo. È normale, no? A te non ti piace a tenerli sopra il tavolo perché impediscono anche i pulire, hai ragione tu. Però Io quando non parlo qua, parlo là, se voglio parlare. Così che tu che sa parecchio, basta trattarlo, perché sta sempre con ghiccio. Non puoi stare sempre con un BMR attaccato, devi attendere ghiccio. E fa vedi pure i 27. È un bel puro, devi trattare. Ma te la ti porti la sede sto cosetto di Renni, canale. Ah, non puoi mai nessuno, non da fare. C'è se poi stati bicicati sul 10, a Claudio, a Marco, o a Giulio. Ma poco, 10 minuti massimo, e da poi tutti spariti. E nessun altro, come ci trovavano prima. Non puoi più nessuno, non da fare. Sai che vi so, me? I rudesi vi so. Bisogna, Teccio, non posso stare tutti attaccati all'apparecchio, tutta la tale di mandano. A ieri c'è travagliami, bello bene. Tu sei in casa magari lo vuoi sentire, è chiaro che se chi ti sta travagliando non puoi stare attaccato all'apparecchio. Quando è possibile vi fa vedere, quando no, una sazzeggio e via. Cazzo, cos'è questa cosa? Allora chi non per nessuno io mi devo lampare. Non lo so, ma io dico, se vuoi te lo posso sentire a 27 come te, gente adesso che adesso. Boh, io chiedo in una palestra a tutti che la sento, mi dà di chi mi ha dato i miei canali e lo fermo lì. Ma è di mangiare le mie vicine, qualche volta ho sentito alle occhie, a Gianni non so più chi. Che se li posso d'ora, chi ti dà la patrici, mi dà che da vino non mi ha sentito di nulla, mi dà che di travagliare il bosco, non c'è più entrato. E la fratto una voce di papà e pensi, e tu, fratto di solo. Però non c'è male nessuno. E tu là sei sempre remunito, come ti fai tu? Ma poi dici che non fai mai nessuno. Per forza, se tu non attendi non fai mai nessuno, no. Cazzo, io l'attendo e acciappo sempre niente. O in un canale, o in l'altro acciappo sempre niente. Boh, mi saranno i loro che non fai mai nessuno. Però vi so loro che vi so, così che non è che puoi dire che non fai nessuno, vi so. E certo, se tu ti fermi in un canale, è chiaro che non fai mai nessuno in questi canali, no? E poi, io la sento, secco, un divergente e mi fermo. Boom! Invece tu si rimane a Lurrimoni e a Tendichisto, i loghi non fai nessuno, tutto lo mazzano. Cioè ci seri, non fai manco nessuno i loghi, e allora cosa vuoi di più? Canto fino a canto fa gente fa vedere, canto non viene ai costi oppure chiudi tutto. Aspetta, non è che tutti vuole stare attaccati alla chissà gente, no? Pensala a tu come ti sei ben senti. Avanti Luca, se non ti dormi, dormi così. No, sono qua. Sto leggendo su Facebook, ho quasi finito i giga del internet. Casino, ma non c'è più, alla fine guarda, io sento così come due chiacchiere, ma non c'è più la passione di prima. Fregati, canto per gente fa vedi, canto nuovo a fuggizzini, come tutte le cose, capito? Come tutte le cose, canto per gente si fa vedi, canto non per nessuno. Pazienza, o è chiudo o hai cose, si entra io, non me ne chiede pane, capito? E parliamo con Muro. Ma sono d'accordo con te, Gio Marino, non ti chiede pane, ma sono d'accordissimo, però alla fine se te le vuoi comprare per tenerle lì sopra al mobile o dove ce li hai, non so, o conservate, non ha senso. Solo le metti lì, le accendi, te le guardi e vedi tutti i colori. Ehi, Graziano il Rimuni. Graziano già il Rimuni, io non il Rimuno. E per il bocca d'anarci me la accendi e me la baito. E ho già voi, per me un guscio. a te. Non ti piace, no, per dire non attendi, capito? Però a me mi piace che l'attendo, anche pure se non veni su. Mi piace, mi riguardo. E te? E cosa fai? Hai un piccione Siria, hai non veni su, si finne gente, mi fa vinto, si fa pazienza, cosa sa che così, io attendo e non vi fa vinto. Hai costo. Pure che ti ha cagliato. Ti piace pure a cucciare, se ci vuoi, capito? E se ci vuoi a dove nessuno. E c'è pazienza. Vuol dire che faccio anche cosa, a casa la cosa e quando entra li fa vedere, quando non entra nessuno e ce la putti. Me la paghi due e basta. La giubbotti una cazzo, la giubbotti un po' loro, la giubbrigati. Scocciate e ce la giubbrigati da mezz'ora in piedi. Intanto attendo e fantasmi, ma con i fantasmi bisogna. E per questo. Avalo me ha preso e lo due è conservato. Come ti fai tu a intendere che tu non assenti? Perché se tu assenti per gente, visto che io, è fatta niente, se tu lo fai, lo fa vedere manco io, l'hai compreso come te. Ma il fatto che un paio di volte io l'assento e intendi che per gente, chiamelo, ti risponde, io sono da cappa. Fai intendere. Lui chiama e non entra nessuno, è tatuare di nessuno, non c'è pittare un capo con chi ti pone. Lo pittiti e non fa entrare a fare vita. E tu, e tu, e ti cagliamo lo fa vita. Per forse tu discute l'abortante e non dica a ve, che hanno ve. È chiaro che non ti rispondere. Allora ti ho detto che scudere l'abortante, ma... La portata la buci buoni pure per dire no, avessi qualcuno. Se mi rispondere, è buono, se mi rispondere pazienza. Ciucchicciù. A me la fuzzi. Tanto. Non conviene più, oramai sono tempi passati, la nuova generazione. Sapere addirittura che mi l'avevi appresso, visto. Ma lì sapete cosa era. Mi raggiunto cosa era se fosse arrivi i giovani di oggi. Ah, ti visto così, sei bossato in campagna, hai chiamato e stai in riposo. Vedi un po' com'è la questione. Se tu non chiami non ti risponde nessuno. E anche voi a non rispondere pure. Pure chi si sente. Però se non si chiama uno, come ti fate a rispondere? Bello bene. Allora fai così Matteo, se rimuovi il seghisso, il borgheggio lo mette, lo può vedere tra Mario, e tacchi quello lucchetto, bello bene. Allora la mani di te, se voglio chiacchierare o mandare messaggi, vado su WhatsApp, su Facebook, su Messenger, a voglia, bisogno di quello c'è oggi, quello è preistorico, così mani di te. I giovani di oggi. A me non me l'ha detto mai nessuno, una cosa del genere. Se non mi la via a riposo, chi se ne pente mettono per appassionato a chi c'è gente, perché sia un appassionato e sta tranquillo chi lo tratta. E già lo credo. Si fila Antonè. Allora, quelli sono tutti, usano il computer, poi si lamentano che tutti i messaggi li leggono tutti. E lo sai che graziare cos'è? E dobbiate abbaidare solo i femmini nudi dobbiate abbaidare Graziano, che ha il computer, ha il telefonino, non fa vedere il baracchino femmini nudi lo vedi solo. Appunto, poi quello, se c'era stato Falcone parlando se tranquillo, avrebbe mollato il computer e avrebbe ascoltato Falcone. E allora bisogna chiamarlo a Falcone, si fa vedere un Falcone, sì. Aspetta, da Graziano, parla con Falcone. Ehi, hai visto la clamiglia, Antonè? Lei ha già l'ho vista, ha già visto anche il porcetto disteso che stava aspettando a essere cucinato. Oggi già hai mangiato bene di lusso, eh? Ehi, Napoli sei da sempre più bene e me ne sono salito. Non facciamo cacca a fuori, troppo tempo brutto. Cazzo, la più vedi e c'è fra la campagna. Vabbè, già per la casa. Cazzo, ma ti pare che uno fa la campagna? Vabbè, meglio un gusto che se tomarati, se ti farati a mangiare in campagna e a cucinarlo. È andato per me stesso. Cazzo, non so che bisogna di mangiare di carri e oggi si fa la campagna a mangiare carri d'orra. Boh, fermeva. Carri, pesce, torta, tiramisù, cigioni, spaghettini, un poco di tutto. Infatti, tanti sei decciato, hai fatto bene, hai mangiato, hai bisogno un poco di umido, senta, e ti sei andato bene. Avanti Luca. Votato abbiamo. Ah? Ho detto, se abbiamo votato oggi. Io sono andato in comandante, sono andato a votare. E tu andate sì. E tu Antonio andate sì, Graziano anche tu che non vota il sanno. Io sono andato a vomitare, non a votare. Perché tanto non se ne farà nulla, te lo dico io. Domani verrà che succederà casino perché non riusciranno neanche a avere la maggioranza nessuno. Quindi andremo a votare. Male infatti, vedi. Grazie perché bravo, è andato a votare, ha fatto il suo dovere. Tu invece non l'hai fatto, vero Grazia? Io sono andato e mi ha messo nella scheda elettorale da sostituire a chi è già piena, hanno quei casini più timbri. Dunque devo andare in comune a rifarmi la cartella. Hai compreso che io a Giuseppe buttato. Tu sei bravo, lo sapevo che tu sei bravo. Hai fatto il tuo dovere, per tanto lei non l'ha fatto. Male però, Male, quello è un dovere andare a votare a Torre. E già vota Cicciolina per quello. Ah, così, Tu, a che ora sei andato a votare tu stamattina? Ma Luca e Magnetti, mi passa fuori Magnetti, Luca, grazie. No, non sono qua, non ho capito, a me stavi dicendo, Giovanni. Ho detto, a che ora sei andato a votare stamattina? Che erano le 9:30, più o meno. Bravo, e tu, grazie, che non sei riuscito a votare? Alle 10:30. È vero, mezz'ora che vera la fila. Io ho votato per i 5 litri. Come? Movimento 5 litri. Non ho afferrato la battuta, scusa, Ho votato Movimento 5 litri. Non va bene. Votate Casa Pound. Certo. Hai sentito Graziano? Ci ha messo il baracchino, è morigato tutto, hai straccio, un'ana, ma non guasciasse, se la potete essere a Mario, è attaccato tutto con un lucchetto. Antonè. Allora, vabbè, 27 non mi sembra non c'è nessuno, ieri notte sono stato io, fino alle 2 di notte, al baracchino, perché ne stavo modificando uno, e ho già finito alle 2 di notte. Gli ho messo lo GBP 4 ottoni, gli ho fatto la modifica della potenza, dell'audio, e quindi mi sono caricato alle 2 di notte. Un secondo Antonello, riprendi un attimino. E già sono qua solo. E c'è Graziano, mi ha mandato le fotografie, stamattina stavo mangiando quel porcetto grande, cazzo, 8 kg. Bello sdraiato, sembrava un pascià sembrava. E chi c'era fino alle 2? Ne manca un'anima. Lo so che non c'era nessuno, infatti. Peccato per... L'ho modificato e provato, mi sono acceso l'altro baracchino a fianco e così almeno l'ho modificato. Ed è perfetto. Capito? Adesso già funziona bene. Ma io l'ho acceso l'altro giorno, tutta la sera acceso. Oggi una viaggio nei canali, dall'1 al 40 nessuno, poi nel 45 nessuno. E tutta la sera, ogni 3 minuti girava a vedere, no, si pizzicava i gaccheri. Manco un'anima sono sentito, né la M, né in FM, né nelle bande laterali, nulla mi. Per dire che prima che nelle bande laterali qualcheduno l'ho sentito, non per nessuno. Oh, propagazione sono, anche io non ne sento più, sono parecchio. Ho sentito solo gli spagnoli, mi sembra, 3 giorni fa, in FM, per 5 minuti, poi non sento più niente. Propagazione non c'è proprio nulla, niente, questo inverno è proprio nulla. Siamo tutti a livello locale, siamo. Invece, tanti anni fa, sentivamo gli americani in pieno inverno, arrivavano 9, 9 e 20, i russi. Quest'anno niente, nulla, proprio niente. Infatti io mi ricordo a questo periodo, ne sentivi parecchi, gli americani c'era un periodo, venivano in tutta la vita, lo ricordi, anche l'anno scorso. E infatti, allora, quest'anno la propagazione è proprio zero. Evidentemente ci sono un bel di macchie solari, dipende dal sole, capito? Evidentemente c'è proprio un calo, hai capito? E quindi per quest'anno c'è la crema puppa. Ehi, ehi, riprendi lui, ma già dove stai? No, ancora no, verso le 7 così, dai. Ma è roba leggera, anche io già a pranzo ho mangiato un leggero. Diciamo che il peso mio è, mi sa, devo scendere di qualche chilo, dai, e ci devo riuscire. Quanto era il peso ideale? 70? Beh, 76. 76 chili mi sa. 76. Potrebbe anche andare, da. No, è di sì. L'altezza, in base all'altezza, potrebbe anche andare. Oh, io pesavo 69, adesso non me lo ricordo, non mi sono più pesato. Ah, Tony! Dimmi tutto. Quanto pesi tu? Luca pesa 76. E almeno una novantina di chili peso io. Mi sono ingrassato, ho capito. Sto mangiando abbastanza questo periodo, adesso mi metto a dieta, faccio la dieta, metto a camminare, a fare le passeggiate quando non piove naturalmente, a piedi, capito? Vado a bermi una cosa, riprendo di nuovo a piedi e me ne salgo di nuovo a casa, tanto così mi alleno un po' le gambe, perché stare fermo a casa così mi fa, sono tutto a dolori, insomma, capito? Se non fai movimento direi. Ehi, così è. Riprendi tu Luca, già rientro fra 2 minuti, che vado in ufficio. Ehi, sono qua, sono qua. Sono stanco, perché stasera il pisellino non l'ho fatto. Quindi non hai fatto il pisellino stasera? No, il pisellone ho fatto. Ah, per quello che sei stanco. Ma questa storia era sardo, era? No, ha giocato col Cagliari, però non era sardo. Però c'è, non so, non ho capito io, c'è un negozio a Cagliari. Mi sa che la moglie di Cagliari, non lo so, non ho capito bene come sia la questione. E c'è un'attività a Cagliari, c'è, non so se è un negozio, cosa diavolo è. Ha 31 anni, buh. Morire così di notte, o qualche infarto, qualche ictus senz'altro. Non riesco ha fatto le analisi pochi giorni fa e non c'aveva nulla. Quindi è una cosa strana. Avrà fatto uso di qualcosa, sicuramente. Sì, non credo, no. Adesso vabbè, faranno l'autopsia, non penso che abbia usato qualche cosa, no? Ci mancherebbe. Non penso che sia doppato, no? Oh, so. Non lo so, qualcosa, tanto si saprà di cosa è morto, si è fatto uso di droghe. E a 30 anni è giovane, Romy. Io capisco 80, quello che è, va. Ho 31 proprio, giovane. Ma la mano non gli è capitato in campo, gli è capitato, cioè molto nel sonno, non se ne è mai accorto. Tu figurati se giocava la partita oggi, ci sarebbe rimasto secco in campo come minimo. Boh. Basta fare un'autopsia, vedere, poi si saprà di cos'è morto. Ma è un arresto cardiaco, una morte naturale, che ossa, boh. Quando chiama, chiamami, no. Purtroppo è così, che stai bene, che si... non c'entra proprio niente, quando capita, capita, venuta di va. Cosa è successo, Antonio? È morto un giocatore ieri notte, della Fiorentina, capito? Sonno, no, ma stanco sono, dai, sono stanco perché non ho... la macchina la sveglia presto, di solito pomeriggio mi riposo sempre, poi ovvio, se lavorano devo travagliare. E vabbè, mi tanto un po' mangiamo e me ne vado a casa mia. Tu pure sei stanco, Antonio? No, io mi sono scoricato alle 2 di notte e mi sono svegliato stamattina alle 9, 9 e mezzo. Poi non sono neanche uscito perché stava piovendo un bel. Sono uscito ieri sera a farmi una passeggiata e basta. Ci vuoi fare? Graziano invece è bello pippato, sempre mangiare carne di bucchito, la faccia nostra. Tirami su, l'hai sentito, catta, è una buona di cosa. Oggi si è fatto la balza a sacco. E già mangiato oggi, senz'altro. Si è riempito bene tra un pezzo di porcetto, un pezzo di salsiccione, un po' di verdura, il dolce, a voglia. Mangiato lo mattese. Allora. Va bene. Allora, bello bene, ora c'ha pizzo, va. Si è mangiato di la missua, va. No, era in ufficio andato, lui ci va molto spesso in ufficio. Cati in sagadria, le consumenti. Forse c'ha sette busate lì. Quando mangia uno, a volte va direttamente in ufficio, mi anche. Quindi figurati, dipende da che cosa si mangia a volte. Io la mattina quando mangio lo yogurt, parto in quarta dopo 10 minuti. Purtroppo mi fa quell'effetto a me. È come quello che si beve il caffè la mattina, no, la mattina presto, che va al bar, si beve il caffè e poi va direttamente in bagno. Ehi. Grazie, mi va in ballando me. Ciao Mari. Ehi. Prova su 23 a ver se mi senti con quel baracchino, adesso ti chiamo 2 minuti. Su 23? Ehi. È acceso qua, è acceso qua. A me da che non fai un'altra cosa, mi viene la 23, ce l'ho accesa io. E tu dove sei? Davvero? Luca! Chi è? Ma qua la meglio del buchi ci sì. No, ma la 27 c'è anche Gianni. E oggi ho preso il tubo. Nella 27 c'è anche Gianni Antonello, non entri. Oh, e sa vedere. Aspetta che Antonello sta attaccando il 3009, bro. È acceso qua. Oh, io ce l'avevo su 20, su 20. E non sentiva nessuno, gatta. Non me l'ero accorto che era su 20, perché era su 23. Gianni, non lo so cosa sta facendo. Mi ha dolendo, sì. Cioè, avanti, buonasera. Beh, carissimo. Chi sono, chi sei? Buonasera. Buonasera. Via. Mari. Oh, ma dove senti? Sento a tratti, come vai? Perché sono con un gommino, dai. Ma io sono volante da fuori. Tu ci arrivi bene, ma io sono un gommino in questa cameretta e... è così che non mi posso fare, non posso fare altro. Ah, ecco. A me bene mi ascolti. Benissimo. Vabbè, andava. Andando, vedi la gai, bravo. Passa 23, accendi la 27. Yeah. Che ci sono loro, dai. Senti vita mia, cambio. Ok, ragù, faccio Maria a vedere come gli arrivo. Come? Cosa hai detto, fra? Io me lo può chiedere a Guffo. A vedere come gli arrivo lì. Arrivi bene a Guffo, Tu è vicino a Graziano, Iva vicino al monte, la prestella, dai. Tra Graziano e il monte, dai. Arrivi a bomboletta e occhi. Arrivi bene qua. Avendo franco, senti qua vita mia, cambio. Iella. E chi è? Attento blanco, vita mia. Bebe. Va a vedere il saggio, Il marocchino lo fa vedo io. E allora, buffone, dici. Allora, ma insomma. Attento, io Maria, vita mia, cambio. Ma allora lo stavi uscendo? Stavo uscendo, ho dormito io. Addirittura. E solta drome. E mi ammuso, mi bongo. Califo. Sì. Allora senta Luca Manicomio. Luca. Sei dormito, sicuramente. Sì, Giomari, dimmi tutto. No, sto cenando, là, mangiando qualcosina. Così me ne vado a stomaco pieno a casa. Non c'è a casa tua. Ma sei parlato in due, cosa Giomari? Ma Franco, lo senti? Cazzo, arriva più forte di te se ti fidi. Arriva fortissimo. Bravissimo, Franco. Bene, Luca ci è già arrivato. Anche tu, Luca, comunque arrivi bene. Arrivate bene tutti e due qua, non ci sono problemi. Sì, a fondo scala, sì, radio super 5. Andar bene me, da. Va, passo 27, aiuti. Sì. Attento signor Franco, cambio, senti uomini, mia, cambio. Pore! Che? Ah, buonasera. E allora? Avendo. Buonasera. Buonasera lì, come andiamo? Mari. Oh, Marino. Fra. Aspetta, faccio una cosa al computer. Avanti, dai. Leo fra. Senti uomini, mia, cambio. Bello Cariello. Vabbè, fra. Passa, pompando stai. Sta pompando, sto facendo con la tenda in rame io, capito? Latte dolce. Sì, a QTH qua latte dolce, cambio. Arrivi bene anche tu. A fondo scala, sì, qua. Ah, va, mi piace, mi sta a casa, là. Ma ci sentiamo dopo, sì. Una canzone, tanto, dai. Andar bene me, da. Oh, Lucrezio, Luca. Mi sa che ha chiuso Luca, stava salendo al monte. Vabbè, sei giù per lui. E allora, metti un po' di canzoni, dai. E io non aggio musica da Buni. Mi sta arrivando cosa colossale, mi sta arrivando. Ho detto che non ne ho musica io da mettere. Ma canta, anche tu canta, vai. Ciao, mi stanno chiamando, ciao. Ciao Mari, dai, ce la riascolta, ciao, anche io sto chiudendo, devo fare cosa. Sì, ciao domani, ciao, mi stanno chiamando, ciao.